servizi sempre, alla cazzo afferrava nei caricani, tutti. Cazzo c'è una maniera, la polizia, i carabinieri a sedare le risse che facevano. Perché anche lui non lo sa gestire il locale, sicuramente. Anche se non fai una voce nel locale mio, la seconda non c'entra. Vabbè, ma da voi tutti i giorni, tutti i magari buraedu, si muniamo i risussinchi mi a rompere le balle. Non so già, ma non mentre nel locale mio si fa il casino. Una volta, poi ti allontano. Ti puoi effettivamente ammazzare, c'è una battuglia di tutto bruciato. Perché no, non va bene così. Io lo so che non va bene, purtroppo è un macello che andè così. Mi ha cotto una zussa a Natale, oia. Per carità, gente che fa fare il riso ai singhiazzi di Zussinchi. Sembra farrassi magari con qualche sassareso. E allora? Cazzo, quando vedi chi beve qualche sassareso, qualche uno di qualche altro paese, si affarra. Cazzo, andano in chibi, si imbriaccheggia da voi, si affarrano i burri. In che senso pure, cioè, con senza senso, solo a chi si divora. Allora, no, si affaravano i tre denti, si affaravano con l'assi paesi, prima si imbriagavano e da lui cazzo facevano i rischi. E magari bucavano il muro. E beh, cazzo, prima o poi la scarpa giusta al piede suo già lo trovano, capito? Non avranno bucato, per carità. E beh, certo, no, devi ne vinci sempre i piedi, no? Magari a ciappare, non di pure cui di avvio. Una volta veniva uno e pariva una marruccura, ragazzo. Una macchinetta a cudenti. Era piccolino, ma cudia, cazzo. Beh, no, non è sempre besano, Natale. Non è sempre besano, una macchinetta con dei bugni, è fatta di bella faccia. E questo qui lo vedevi, non sembrava il tipo, Però, cazzo, cudendi è un demonio. Cazzo, pochi cudia. A Roma che impara a rompere il cattore. Sono andati e hanno detto cosa alla femmina di Ghiciu. Capito là come fanno? Rompono le balle e poi forse chi tu si gira. Ha fatto bene a prima da fare me da faccia, non ho che impara la prossima volta. Mi da sassare le cose del lasare. Ehi, questo qui, cazzo, era pure mingherlino, non era niente di che, però picchiava come un coso, come un fabbro. Gonfiate un po' e poi via. E la volta che si sono sicchiani buccando voi, via, una zussa. Vabbè, stiamo rifacciando. E che ho tutto il nome ne brincati in lento. Cazzo, gli ero grido, da ricordo una zussa, cazzo, erano imbriachi, no? E si punivano a rompere le balle, alle femmine dell'altri, a chi sono girosi pure i sussinchini, tra l'altro. Guai, si vede, mi cazzo uno di pure quella femmina che sussinca. Allora subito tu attaccano, ma risulti. Che sono ignorante. No, girosi sono girosi e ignoranti. Cazzo, ma che, se una volta in sosso sono andati a madame, cugino, l'altri, la Migizui, beh, allora cazzo che dovuto attassare a pigliare i fusili, lui nome cugino, cazzo, che senza presa arriva nei biglietti di Sussinchi, campagna sono dovuti fuggire. In Chibi la cosa è più, se usi arma da fuoco ne esce un casino, ti sono contento, cazzo, una buccia, tutto il paese, i piscicendiri, campagna sono dovuti fuggire, cazzo in sosso è un casino, me, si buonano tutti. Vediamo che questa cosa ribassia, che non se ne può più. Li Sussinchi sono così, ma Sussinchi. E se non so paridinami, azzicardi, mamma mia, noi di marisinarisi, ma Sussinchi non sono meglio, non si preoccupa. stavo sorgogliato, ma non andare da nessuna parte, no? E tu dici che si è macchia, se non c'è attento ti fai di nuovo uno cu. Già male su sinchi macchi, già male che fate le cose da fuori di capo. Sì, ma occupati in attesa se non stai attento. Specialmente quelli di Nai, quelli cosi, sono fantomati. Io avevo una collega che era su sinca, mamma mia. Sono furbi, ma la sorte. Brigida! Sì. E poi anche ho preso su un posto da 1000. Tu pigliamo da Rai, chi sarà 200. Io la prendo sempre, cazzo, sono sempre al zillo, come vedi? E lui va a prendere, dove va a lavorare lui, c'è l'asinello lì, e lui ci rifornisce le mine, Emanuele. Cazzo, cammino più del cavallo, figurati. Penso via. E beh, anche da posto, sì. Un po' quando non ha tenere uretto. Ma cosa vai? Ma cazzo si va anche da dolore, da gente sono anche da ammassata, si ha dolore ancora. Fatti male non vedi anche la giubbuccio mare, e sono come sono cacciuto. Torre, è morto. Oh, da ricare, te la sentireva. Che cazzo, ma cazzo non si può spiegare a me, tu devi andare a cazzo in convento a farti benedire. Cosa vuoi che ti dica? Ma cazzo, ma io no, tu devi andare a farti, la benedizione, devi andare a farti dare dal prete. Sogna, per carità, va. Oh ragazzo, io vi lascio un po', mi drommo un po' carino. Ci sentiamo un po' più tardi, eh? Sì, ciao, dai, buona religione, buon tutto, dai, vai a Natale. E ciao, riposati. Figlia di una di Sibruffa e ti do qui sente, pari dolori. Ci se no non ti basta. La pomata non serve a un tubo, me. Oh, cosa si fa la pomata? Oh, yeah. E infatti, io via lo gioco. Che ne so, 7:15, che cazzo, 7:15? No, ho visto sono di 10:30. 6:30? Sì, signore. Sì, vecchi, via. Oggi sono sciolto, Natale, sciolto dal lavoro, per carità. Ho smontato, ieri notte ho fatto la notte, ho smontato, ho ripreso alle 2 e poi sono uscito a mezz'ora, un'ora fa. E alla Emilia lavora? Lui si è messo da esaurendo questo cazzo di lavoro, si è esaurendo veramente, cazzo, veramente. Hai tu colloquio fatto la vita, Manuè? Ma se no sei pentito, cazzo, non ci ho detto, ma molto hai visto, cazzo, faccio tutto io, infatti mi hanno detto la cronaca mia, ma che dove aveva fare un colloquio, e che cazzo ha più sentito, cazzo, c'è la molto visto. Secondo me dovete andare a filmarvi voi, cazzo. No, ma è questo, c'ha conoscenze abbastanza alte. E se andiamo noi, e come ti, se andiamo così a fatto un giro e basta. Quindi, come ti dirà lungo che cosa sono rampa. No, è boh. Torna così Natale, ormai se non vai calci in culo, ormai si sa, non entri. E io lo so, Guglia. E ma allora di che dirò a Ghiccio? Cosa ne so, quello deve cercare lui che lo conosce questo alcuno, io lo conosco. Ha detto che il cazzo che appena è. Lo chiamava e. Adesso. Fatelo cercare allora da questo qui, sennò è un macello, ma poi si racciappa nei ribassoni che riservi, no, pigliare via nessuno. Quello che vi ho detto io, ma cosa ne so, io non lo conosco neanche, ha detto che non sa neanche numero per chiamare, se no l'avrebbe chiamato. lascia perdere, va. Sì, a tutto. Non valgono accidenti. Non valgono accidenti. Qui adesso fra un po' inizia la stagione, dolla. Alla... come ho fatto l'anno scorso, con la Ghibi, alla... Vida, a... ma... cazzo villaggio in Vida, al Tortuga, a Santa, a Santa Teresa. Un cazzo vado più, vai, ci diminuisce a Guru, vai. E poi la strada cazzo è fea, chi sa andare in Ghibi, mamma mia. Uno di voi ce l'ha giocata, ci sa strada, brucci, cazzo. Ma sai i cinghiali che ci escono lì dalla strada? Non hai tu un'idea, i cinghiali che escono in quella strada lì, tutte a curve. No, vabbè, per... ci abbiamo l'alloggio, no? Non è che cazzo viaggio ne arriva, ma siamo fumetti. Io scendevo una volta alla settimana a casa. Io ho capito. Beh, c'è bel alloggio. A chi ha viaggiato ogni anno in Chivi, gas, mamma mia. Io andavo alla Maddalena, facevo questa strada, no? Facevo Santa Teresa, Palau, la Maddalena, da qui a Turlamini, cazzo, dalla Sabassi, Sant'Antonio di Gallura, Calangiano, su Tempio, e mi durava dalla 131, 12 giuri, sempre andenti. Sono brutto, lo so, sono brutto quella stare lì, sono baffi, e poi si mettono a casa a curri, a casa a cazzo duri, vabbè che sei del posto, ma ammazzonato, andiamo a cercare animali, cazzo se ci riesco a spada, zish. Ero grido, io gli hanno più di curri, se no mi puniva la contravvenzione alla giura, più di chi tu tanto non puoi andare. Ah, e lì sono strade di merda, sono. Lì va bene farla di giorno solo, quando inizia a fare buio lì, che ci si, la notte, la roba di cinghiali, dice, lì, ecco che... Sì, me lo posso immaginare. No, dopo di distruggere la macchina, se non la cinghiale la ciappa, intanto ti fa la macchina a pizzi. Cazzo, una volta se cultivava un cinghiale, cazzo, ma come arriva via, cazzo, gli da macchina mano a mano, ti rammenti, cazzo. A giù ma si faccia la macchina, me. Già lo ricordo, sì. Cazzo, se va via uno dell'R4, cazzo, ti avevi fatto la macchina, a catturetta. Dici, ti godevo una macchina così, sei molto. Cazzo, il cinghiale è duro, c'ha la pelle dura. Cazzo, ma una volta si è scontrato con un cinghiale, avvero, con questa macchina, manco mare chi va via, chi sa la macchina. Se va via una di macchinetti così del cavolo, avevano ciappato il volante e ributti di Raridu. Bisogna andare piano lì, quelle zone lì, ma se no li so qui a soccureare, cazzo ve ne è poco di selvaggine che mi muro, e beh, cazzo ma cinghiali lì, cazzo giù, ma la cazzo ti sono passati la vita di cinghiali, da mamma, babbo e figlio di minore. Vedi, ma si sono incrociati, cazzo, anche lo cinghiale non può essere così in mano, si è selvatico, devi essere incrociati con un buco maggio, anche sono maduri ma raggiunti, quindi sono incrociati. Sì, sono grossi, cazzo sono mannavio, sono grandi veramente, si è attento che quando c'hanno i figli vicino, sono più aggressivi, cazzo non andi vicino, mia madre di vecchia. E io si è finito, mi ginghiare, buzzino Susia, e poche maro. Una volta un cattatore, cazzo, ha mollato così e tutto e si è stato in alto all'aiguro. E lo cinghiale è sotto. Cazzo, lo cinghiale Natale è maro, quando è... Sì, quando si tu li vedi correndo, lo sai come ti... come ti passa? Travolge tutto quello che trova. Allora nella campagna dove vedi tu, ti ricorri, cazzo tanto quindi è pieno, chi ve l'ha ben avvito, Ed è pieno, a chi dice Nathani darà vero via. Nathani, la pagliata Nathani. Adesso Mario, questo era un caso, mi ricordo era pieno avvio, era pieno veramente. Cazzo mi ricordo i buchi che c'erano lì nella terra, uia. Però non so, la retta avevano messo, mi sembra lì. Ah sì, c'è cazzo, che mia moglie che si è fatta male. Ma non funziona già più. Ma cosa non funziona già più? Si chiede Rumausi mi è caduto in terra. Mi era caduto il mouse in terra del computer e lì cazzo prendendolo si è fatta male. No, oh, voglio la contentina. Cazzo prendo una cosa da autista ecco. Una scienza è. Natale, sono stato mettere la per porta a casa serena. Che giraira non è un'idea amara, no? Sarai, cosa? Diviro. Diviro. Perché non ci vai tu a casa serena, no io. Ah, ma mi hanno già rischiusa la casa serena. Penso di è. Ma sta dingi, c'è frequenza, non entrende più nessuno, ma non è. Cata, io già ero un po' di giorni che non entravo perché non mi sento bene, ma... avviso mio non entra in più nessuno. A quanto pare? E tu a vedere che non me ne sei accorto. Ui, lascia perdere. Ce ne sono pochi orecchie pronti. Tu ti ne voce che culo lì c'è la cucchetti. Sì, infatti. Ah va, già lo so che per aiutare la corte, però non entra una pavidà. Si stacca, ma sono a parlare. E ui. Questo computer cazzo ha guardato tutto, questi telefonini. La guarda del stato della tecnologia, computer ormai, la radio che hanno tolto di mezzo. Prima nelle camionisti entravano, cazzo, ma manco è di nani più. Via già c'è fatto a Pinguino e non aveva, va via, era guidando un articolato però non ne aveva antenna, no, non ne hanno più no questi qui, ne vedo tanti e sono tutti senza antenna. Antenna sul coso, no? L'antenna della radio solo e boh, dell'altro radio e basta, va via nell'articolato. No, non ne hanno più, io ne vedo tanti e tutti sono senza baracchino. Prima, e gli serve per lavoro a loro. Boh, deve essere si chiamano il telefonino. Ma loro, sì, mi sono tornato a partire per più nessuno, volevo capire. Sì, infatti, ne manco tre dediche. Prima addirittura avevano chi ti va bene il baracchino con l'ecco, che se ne andavano in un 45 a fa casino quando aveva proprio occasione. Modificati con l'ecco gatto e facciamo i casino forti, invece va, non c'è più nessuno, il 5 era pieno di camionisti, adesso non c'è più nessuno. Allora io ho sentito Marco Vero di dove abitavo prima io su una parte. Come qua? Non c'è nessuno, non è stato infatti. E va, fra 7 mesi Windows 10 finisce e penso che molta gente ce lo butta al computer. E quando Windows 7, senti? A me non me l'ha fatto manco installare Windows 7. Perché ce l'aveva mia moglie e non me l'ha fatto installare. Adesso scade anche Windows 10. Gira più nulla su Windows 7 e anche Windows 10 fra 7 mesi dice che scade, non fanno più aggiornamenti, nulla. C'è già Windows 11, c'è, però dici che è una mezza boiata, che non riconosce le periferiche, è un casino. Un computer vecchio, il mio ne ha, no, manco Windows 11 ti installa perché non è predisposto, capito? E quindi quelli lì ce li devi buttare. Windows 11 non te lo installano, te lo dice pure che non è adatto per Windows 11. Soldi. Perché tanto ogni anno di fatto è andato già male in questo programma. Io vi avevo 15 anni sempre andelli. Da voi cazzo va giù, dobbiamo stare Windows 10 per forza, perché Windows 7 non me lo faceva installare più. Non te lo fanno anche installare. Se tu vai a rimetterlo a nuovo il Windows 7, non te lo fa mettere. Quando l'hai provato a metterlo, a me l'ha fatto da un annetto, A me non me l'ha fatto installare. Se tu vai di nuovo a installarlo, non te lo fai installare. Capito? Io ho dovuto installare Windows 10, ma il mio c'ha 15 anni il computer. Si vuole lampato. Io voto finché la va, la va. Quando non la va, non la va. Però viceversa così non andano più bene. Neanche Windows 11 può installare. Mio Dio. Perché non sono predisposti per... Gli manca un chip nella scheda madre e non te lo fa installare. Ma tu, Valerio, sei anche quello lì? Il computer c'è. Ehi, ha sempre quello lì, c'ho Windows 10, c'ha. Me l'ho installato io. Cazzo, io c'avevo prima Windows 7 qua e ho dovuto mettere il 10 perché il 7 non te lo fa più installare, mi si blocca l'installazione. Non è a sotto il letto che ho controllato, così fuggivo col malloppo. Ah, su cui ti intendo a vedere, sai chi sia una mattonella, chi l'ha già buttato sotto la che mattonella, chi c'ha? Lì di là. Ah, già ce l'ho un altro computer, che me l'ho fatto uno nuovo. Però questa adesso a forza mi installa Windows 11, cazzo, non lo posso variare. Si installa da solo in questo qui, è potentissimo, un computer grosso. A cosa Windows 11 cosa è difficile il programma? No, non è difficile a se io non l'ho visto ancora Windows 11, ma già se ne parla da solo mia adesso. Perché ti richiede di aggiornamento e ti fa installare quello lì. E allora, ma se ne installa da solo Windows 11, il 10 non ha fatto così lo stesso. E l'11 fa ugualmente così. Se tu c'hai Windows 10 si installa da solo Windows 11. Io me lo so come da pezzi, chiccio, mi deve ancora arrivare la scheda video, sta già funzionando, sto usando l'altro, quello di 15 anni è fermo, ma già me lo uso finché funziona. E questo quando va, cazzo grata, aspetta un attimo, la camera si apre. Via. Me li sono mangiati, mi ho preso i pezzi del computer, mi ha fatto il computer nuovo, mi sto facendo a pezzo a pezzo, no? Ho già speso una barca di soldi, vaffanculo. E c'era questo scarameo come ci avevi tu, quello due tipi, mi sembra che lo stavano là 800 euro, dai 600 a 800, aspetta. Ma io ce l'avevo quattro tempi lo scarabeo, già era poco bello quello lì, mi dovevo tagliare le mani prima di venderlo, poi erano uno. Ma due tempi ancora meglio, Natale, due tempi ancora meglio. Ho venduto pure benzina e poco camminava. Camminava di più del due tempi, penso. Già me lo ricordo che ce l'avevo lo scarabeo. La mano destra era, cazzo, la viro la gaglietta, non ti puni il rugasco, mi puni la borsa di ripresa, in chivi, sopra la bedana puni la cassa di leva, puni la ripresa, mi puni un vaga. La notte è comoda, poi adesso quando mi sono una buona giornata, fa un po'. La moto è comoda, cazzo nel mio mauretto che cazzo ne è, la voglia di pizza. Non riesci più a comprare. E vabbè, adesso vediamo un po'. Ora mo tanta volte la devi. E alla più chissà quando travagliavo va più la per 50 che. Ehi, quella che usava pure Gianni. Che Black Diamond. Furgonata, cazzo. Già sono bella a verde, ma 50 non ne avrei preso. Se dovrei prenderla, prendo la per poche, quella a quattro ruote. Sì, è un la mia era pure truccata, se no non camminano in cavolo, no? La mia andava perché era manomessa. E quelle sono molto di Vespa. Quella quando iniziava a farli fare l'albero, metterebbe un paio di pezzi, 130, a casa murava. Poi sono terai, quelli di una volta, quelli col faro, a un faro, io ti sto parlando quelli da un faro, le prime che hanno fatto, quelle sono leggere come teragliature. Sì, se sono 50. Cazzo, non è che... Una volta, gatta, ero in treno in Sant'Uzicio, gatto, e mi sei capotato, si è rombata lo furgone di Ramotto, si è rombata Rumuru. No, cazzo, io le temevo. Io con le moto lì le temevo, a quattro volte. E poi quando prendo qualche buca è facile che si ribalti. Ehi, se non vedo Rumuru me lo ribaltato. Quelle sono belle, quelle sono belle a fare i viaggi. E te credo. Cosa ce l'aveva? Stefano ce l'aveva, Mariuccia. Sì, non l'ha più a chi. No, dice che lo voleva venire, però non so se c'è ancora. Ma penso di sì, perché si faceva i viaggi. Infatti. Vabbè dai, Natale, io chiudo, mi guardo un po' di televisione, tanto non viene giù. vediamo, dai, casomai domani. Ciao ciao, anche io adesso mangio, mi guardo un po' di televisione, metti la campana. Ci sentiamo alle prossime, Emanuele. Esatto. Ehi, ciao Natale.